Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. I disordini di Genova, arrestato il capo serbo, cose mai viste, racconta il CT Prandelli. Un giorno e mezzo per riportare alla luce tutti e 33 i minatori cileni, al momento sono risaliti in 8. Il ministro La Russa in Parlamento sulla morte dei 4 alpini italiani in Afghanistan dice: siamo gli unici senza bombe. In Italia, secondo la Caritas, più di 8 milioni di poveri e più figli si hanno, più aumenta il rischio. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura dunque andiamo a Genova, anzi torniamo a Genova il giorno dopo le violenze degli ultraserbi che hanno causato, come sapete, la sospensione della partita di calcio Italia-Serbia e incidenti per tutta la nottata in città. L'unica strada per battere la violenza è la prevenzione, ha commentato oggi in una conferenza stampa il CT azzurro Cesare Prandelli, che racconta momenti di paura mai vissuti in passato in campo. E intanto vanno avanti le indagini su quanto accaduto. In diretta da Genova, Andrea Ferro. Sì, buongiorno Maria Piera, vi parlo dalla questura di Genova. Poco fa qui è stato mostrato l'arsenale sequestrato agli ultra: bombe carta, razzi, pinze, spranghe, martelletti, ed è risultato che buona parte di questi oggetti aveva il marchio di fabbrica italiano. Quindi questi oggetti sono stati acquistati nelle ore precedenti la partita, presumibilmente a Genova o comunque all'interno del nostro territorio. E ora quindi si cerca chi ha venduto a questa frangia di ultra tutta questa roba. Sequestrati anche striscioni dal contenuto politico riconducibili ai gruppi nazionalisti. Ci sono vari slogan e vari simboli che richiamano anche al nazismo. Gli arrestati sono 17, ma il numero è destinato a salire perché si sta valutando la posizione di altri ultra che, mentre vi parlo, sono trattenuti negli uffici della Digos. La maggior parte di loro viaggiava sul pullman sul quale la polizia ha scovato Ivan Bogdanov, 30 anni, di Belgrado, il capo della guerriglia immortalato in Mondovisione mentre orchestrava i disordini. Era nascosto tra il bagagliaio e il vano motore del pullman, lo hanno riconosciuto dai tatuaggi. I feriti sono una trentina, quasi tutti poliziotti e carabinieri, nessuno versa in gravi condizioni. Nel pomeriggio a Roma, conferenza stampa al Viminale, finora il questore di Genova non ha reso alcuna ricostruzione ufficiale dei fatti. Si attende l'uscita del capo della frangia degli ultra qui alla questura, e c'è un drappello di fotografi che a breve lo immortalerà, e quindi dalla questura sarà trasferito nel carcere di Marasse. Per il momento da Genova ho concluso, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro, e sono tante le polemiche sulla gestione della serata. Il nostro Andrea Ferro ha intervistato Roberto Traverso, sindacalista di polizia del SIL-CGL. Riteniamo che per determinate situazioni di criticità lo stadio di Genova sia assolutamente inadeguato per affrontare questa situazione. Ieri l'errore più grande è stato quello di far entrare dentro quella maledetta gabbia quegli scalmanati. Se ci fossero state le condizioni, dopo che questi scalmanati hanno messo a ferro e fuoco una città, si doveva gestire la situazione all'esterno dello stadio. Purtroppo non ci sono le condizioni, perché Genova ha uno stadio che all'esterno non ha un'area sterile prevista dalla normativa. Quindi noi ci chiediamo cosa dobbiamo aspettare. Abbiamo avuto dei feriti evitabili. Noi lanciamo questo ulteriore allarme rispetto a questa situazione. Diciamo anche al ministro Maroni che comunque il trattato di Schengen non esiste solamente per le persone dimenticate, le fasce sociali dimenticate, esiste per i delinquenti. Quei delinquenti, in base all'articolo 2 di Schengen, dovrebbero essere fermati in frontiera. Nessuna responsabilità della polizia italiana, fanno sapere il ministro dell'interno Maroni e il capo della polizia Manganelli dopo un incontro per fare il punto su quanto accaduto ieri sera. La polizia, dicono, non intervenendo pesantemente, ha in realtà evitato una strage. E ora ci spostiamo a Belgrado, perché sono arrivate le scuse ufficiali dal governo serbo, mentre la polizia assicura che appunto i responsabili verranno individuati e puniti, ed è in corso una visita ufficiale da parte del sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, impegnato in un convegno proprio sui rapporti economici fra Italia e Serbia. Sentiamolo nell'intervista di Dario Ricci. È assolutamente incomprensibile quello che è avvenuto. È un autogol per la Serbia, e questo mi dispiace profondamente. Questa vicenda di Genova si colloca o si collega strettamente ai fatti di domenica a Belgrado, e che quindi sia qualcuno che, di fronte a una Serbia che sta marciando verso l'Europa, chi non vuole l'ingresso della Serbia in Europa, o quantomeno chi non vuole pagare, come dire, il pegno di questo ingresso, sta facendo di tutto perché alla Serbia non sia, come dire, facilitata la strada. Non è escluso, alla luce di quella che è la sua esperienza, chiaramente, che effettivamente, se non nel rapporto tra Italia e Serbia, nelle posizioni italiane, però a livello europeo questo episodio in particolare possa avere una conseguenza. Il Parlamento europeo diventa un luogo nel quale è facile, come dire, argomentare contro questa adesione della Serbia all'Europa. Temo che qualcosa avvenga, mi auguro che non avvenga, ma insomma quello che è avvenuto a Genova non facilita, complica. E fatti di Genova, dedicheremo la puntata di oggi di A Tempo di Sport in onda come sempre dalle 14. Ora invece sentiamo come stanno andando le operazioni di soccorso dei minatori cileni. In diretta Simone Spezia. Buongiorno Piera e buongiorno agli ascoltatori. Le televisioni internazionali hanno appena diffuso le immagini del salvataggio del nono minatore. Purtroppo al momento non sappiamo ancora il nome. Abbiamo visto un lungo abbraccio con la moglie, poi si è inginocchiato a pregare per pochi secondi. Conosciamo invece le generalità di questo. Claudio Yanez, 34 anni, che ha abbracciato la moglie e la figlia ed è stato l'ottavo minatore recuperato. Gli aggiornamenti delle ultime ore da San José arrivano dal ministro delle risorse minerarie cileno, Lorenzo Golborne. Ascoltiamolo. Alla fine di queste giornate, dice, avremo fatto 37 viaggi di risalita per salvare i minatori e i 4 soccorritori, quindi naturalmente i 33 minatori più i 4 soccorritori. All'inizio della manovra impiegavamo poco più di un'ora, aggiunge, per ogni viaggio, ora ci mettiamo tra i 45 e i 50 minuti e lo stiamo vedendo proprio adesso. Se tutto va bene, questa manovra dovrebbe completarsi in un giorno e mezzo, vale a dire mezza giornata in meno di quello che si era immaginato, pronosticato inizialmente, supponendo naturalmente che le condizioni di lavoro restino le stesse. Ma torniamo alla mattinata di oggi. Ricostruiamo con Maria Luisa Pezzali appunto come sono andate le cose dall'estrazione del primo minatore. Sono le 5:11 minuti in Italia, 00:11 in Cile, quando il primo dei 33 minatori intrappolati da 68 giorni nelle viscere della terra esce dalla capsula Fenix. Florencio Avalos, 31 anni, davanti alle telecamere di tutto il mondo, viene accolto dalle urla di gioia dei soccorritori e dei familiari. Il figlio di 8 anni gli si getta tra le braccia. Il presidente del Cile, Sebastián Piñera, a Campamento Esperanza per seguire da vicino le operazioni di soccorso, esprime subito la sua gioia in diretta. Il primer minero, ya está. Il primo minatore è con noi, dice, poi ricorda che la speranza non è mai venuta meno. Io quiero recordar los primeros días. Ricordiamoci quando i primi giorni, quando non sapevamo se erano vivi, se erano morti, non sapevamo dove stavano. A qualcuno che aveva perso la speranza, io ho detto che mai l'avremmo persa, che mai avremmo mollato. Dai quasi 700 metri di tunnel in risalita verso la salvezza, ogni viaggio un soccorritore diverso, esperti minerari e uomini delle forze speciali cilene, esce poi Mario Sepulveda, 39 anni, conosciuto come uno dei più estroversi del gruppo. Mario mette in scena un piccolo show, distribuisce pezzi di roccia raccolti dal fondo della miniera, uno anche al presidente. Per primo davanti alle telecamere, dopo i controlli medici, l'uomo dice: non trattateci da artisti, ma da lavoratori, da minatori. Io credo che questo paese tiene che entendere una vez por todas che possiamo fare cambio, il mondo laborale. Il paese può accogliere questa occasione, il mondo del lavoro deve cambiare. Poi, via via, al ritmo di uno ogni ora circa, il miracolo si ripete per Juan Jiménez, Carlos Mamani, boliviano, l'unico straniero del gruppo, seguito dal più giovane Jimmy Sanchez, 19 anni. L'ultimo a risalire sarà Luis Ursua, il caposquadra, il più forte, in grado cioè di aspettare per oltre 36 ore, il tempo stimato per completare l'operazione San Lorenzo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Aggiungiamo che in tutto questo l'unica cosa che forse ci è dispiaciuta un po' nell'assistere anche alle immagini è non vedere gli occhi di questi ragazzi che uscivano dalla miniera, e però lo diciamo con un pizzico d'orgoglio per il Made in Italy, che evidentemente non serve solamente nel mondo del lusso, se non fosse gli occhiali scuri che gli vi sono stati messi sono della Luxottica. Non è però l'unico pezzo d'Italia in questo salvataggio. C'è anche un pezzettino di Italia oggi nel salvataggio dei 33 minatori cileni. Stefano Massei è l'ingegnere responsabile del terzo di tre piani per recuperare gli uomini 622 metri sottoterra. Toscano lavora da 2 anni in Cile per Enel Green Power. È un esperto in trivellazioni. La soluzione A è stata momentaneamente sospesa per via che passava molto vicino al pozzo piccolo dove vengono inviati tutti i viveri, dove vengono inviate tutte le comunicazioni ai minatori, eccetera. La nostra sta perforando, la soluzione C sta perforando, perché fin tanto che non saranno tutti fuori non sarà interrotta la perforazione, perché ovviamente qualsiasi inconveniente che possa capitare durante la risalita della capsula ci deve essere sempre l'alternativa. È invece la Oakley, azienda americana leader mondiale nel segmento sportivo dal 2007 nel gruppo Luxottica, a fornire gli occhiali da sole ai 33 minatori, indispensabile per il ritorno in superficie, come spiega l'ottico Adriano Bonetti. I minatori hanno vissuto per 3 mesi in una condizione di quasi totale buio. Tornando in superficie avranno un effetto abbagliamento e l'occhiale gli servirà per riportare il ciclo visivo al normale funzionamento. Gli occhiali inviati da Luxottica sono già prodotti dalla Oakley. Il modello si chiama Radar ed è lo stesso che usa il ciclista Lance Armstrong. È caratterizzato da lenti avvolgenti molto scure. È stato un documentarista americano da anni in Cile a parlare di questi occhiali a un funzionario del Ministero delle Risorse Minerarie cileno, che ha subito contattato Luxottica. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dei disordini di Genova, arrestato il capo, non ho mai visto tanta paura in campo, racconta il CT Prandelli, il governo serbo si scusa con il nostro paese, il ministro Maroni dice è stata evitata una strage e sono 9 minatori cileni tornati in superficie grazie alla capsula, 1 giorno e mezzo dicono le autorità cilene per salvarli tutti. Il ministro della difesa Ignazio La Russa ha riferito questa mattina in Parlamento sulla morte dei 4 militari italiani in Afghanistan e noi ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Come promesso, all'indomani dell'attentato di Herat in cui sono morti 4 alpini, il ministro della difesa Ignazio La Russa interviene in Parlamento sulla missione in Afghanistan, prima al Senato, adesso appena finito di parlare qui alla Camera. La Russa auspica ampia condivisione sul munire i nostri caccia di bombe, ma sentiamo il ministro. I nostri militari ripetutamente mi hanno fatto osservare che siamo rimasti l'ultimo paese, l'unico paese ad avere gli aerei senza il relativo armamento. Insieme a noi c'era la Germania che sta o ha già ritirato gli aerei proprio perché senza armamento il Tornado è stato in questa fase tattica ritenuto non più necessario. Per il ministro deve decidere però il Parlamento, la condivisione è importante perché così si può garantire un forte segnale di sostegno del Paese ai nostri ragazzi impegnati in Afghanistan. E aggiunge, mai alcun militare italiano è andato oltre il legittimo uso delle armi e mai ha recato danni ai civili. La missione dovrebbe finire entro il 2011, dice La Russa, quando si spera possa diventare solo di addestramento con un incremento degli istruttori. Da parte dell'opposizione, lo ricordiamo, il PD dice no all'uso delle bombe, l'IDV preme per il ritiro, ma anche dalla stessa maggioranza la Lega vuole una exit strategy. Luca Zaia oggi ribadisce ancora, l'Afghanistan è il nostro Vietnam. E per il momento da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ed ora il caso Rai con la sospensione di Michele Santoro. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, 10 giorni di sospensione di mancata retribuzione a partire da lunedì 18 ottobre per il conduttore di Anno Zero. Ad essere sotto accusa è la prima puntata della stagione. Secondo i vertici Rai, Santoro avrebbe usato il mezzo televisivo per fini personali, attaccando inoltre in modo gratuito ed offensivo il direttore generale di Viale Mazzini. Santoro parla di attentato alla TV, di un provvedimento di gravità inaudita al quale reagirà con tutte le forze e in ogni sede. Quello su Anno Zero, dice il presidente della Rai Garimberti, è un provvedimento sproporzionato. Solidarietà a Santoro è arrivata dal sindacato dei giornalisti, dal centrosinistra e dai finiani. Ascoltiamo allora Bocchino. La scelta di sospendere Santoro dà l'impressione che risponda ad una logica figlia dell'equilibrio che il direttore generale deve garantire all'interno della RAI. Appare quindi sproporzionata soprattutto per i risultati di share e di pubblicità che fa Santoro. Pronta stata la replica del direttore generale Masi, chiamato in causa da Santoro e da Garimberti. Il provvedimento disciplinare, spiega Masi, non può essere in alcun modo considerato riconducibile ad iniziative tendenti a limitare la libertà di espressione o il diritto di critica. Santoro fa il militante, dice infine dal PDL Capezzone. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietti, ed ora parliamo invece del rapporto su povertà ed esclusione sociale di Caritas e Fondazione Zancan. Sentiamo Zancan, direttore della Fondazione, al microfono di Valeria De Rosa. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio spendono, ovviamente questo va a loro onore perché vuol dire che investono per la lotta all'esclusione, eccetera, ma il modo con cui spendono è così inefficace che basterebbe metà di quello che spendono per far meglio. La Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana potrebbero spendere un terzo, e Trentino, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano, potrebbero spendere un quarto di quello che spendono attualmente per ridurre la povertà, mentre in Calabria bisognerebbe spendere 4 volte tanto quello che si spende oggi, in Campania e Puglia 3 volte tanto. Insieme alla spesa per l'assistenza, dei 49 miliardi. La prima grossa contraddizione di questa spesa è che per gran parte di questa spesa la gestione è ancora centralizzata. I comuni di 49 miliardi ne gestiscono circa 6 miliardi. Vuol dire che tutta la parte statale è tutta trasferimenti monetari. L'impatto dei trasferimenti sulla lotta alla povertà è quasi nullo. Vale solo il 2%, mentre in altri paesi, in Danimarca vale l'80%, in Inghilterra un po' meno del 50%, perché chiedono la possibilità di una verifica sull'impatto e sull'uso. Noi invece trasferiamo soldi di cui nulla sappiamo. Per quanto riguarda invece proprio la mappatura di questa povertà, che si è anche un po' trasformata negli ultimi anni, causa anche la crisi... C'è un impoverimento di persone normali. La grande differenza non è tra nord e più ricco, più povero, ma tra cittadini del nord che hanno più o meno figli. Più si hanno figli e più il rischio di povertà è alto. Siamo i primi in Europa come rischio. Ed ora i dati economici della mattina. Entrate in calo nei primi 8 mesi, nuovo record del debito pubblico. Entrate tributarie in calo e debito pubblico record ad agosto. I nuovi dati sulla finanza pubblica sono stati diffusi stamattina dal Tesoro e dalla Banca d'Italia. Le entrate nei primi 8 mesi dell'anno sono diminuite del 2,4%, 6,35 miliardi in meno rispetto al 2009. A pesare di più, con una flessione del 5%, sono state le imposte dirette come IRPEF e IRES. In controtendenza invece le imposte indirette, tra cui l'IVA, che sono cresciute dello 0,8%. Il Tesoro vede comunque in questo risultato un miglioramento rispetto a luglio, quando la flessione era stata più acuta. Intanto non si ferma la corsa del debito pubblico. I dati della Banca d'Italia registrano ad agosto un nuovo record, 1.843 miliardi. Anche l'istituto, guidato da Mario Draghi, conferma il calo delle entrate, meno 2,6% secondo i loro dati. Barbara Bonomi, da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Gavettone e uova riempiti di vernice rossa nella notte, lanciati su muri di 2 sedi CISL a Roma. Alcuni precari di Generazione P precaria hanno rivendicato il gesto in un comunicato su Facebook, salvo poi dire che in realtà si è trattato solo di uno scherzo. In un paese di buffoni, uno scherzo svela molte verità, hanno scritto. Sono 3 cinesi le donne più ricche del mondo. Nell'elenco delle 20 donne più abbienti, 11 sono cinesi, sintomo forse di dove oggi sia il potere economico mondiale. Tutte hanno costruito la propria fortuna individualmente e non grazie alle loro famiglie. Secondo il rapporto, Mao e l'estrema semplicità dell'affidamento dei figli in Cina avrebbero favorito l'ascesa delle donne del paese asiatico. Prima in classifica tra le self-made, Zhang Yin, regina della carta riciclata, che possiede beni per oltre 5 milioni e mezzo di dollari. Seconda, l'immobiliarista Wu Yajun, seguita dal industriale Chen Lihua. La prima non cinese è, al quarto posto, la spagnola Rosalia Mera, proprietaria della catena d'abbigliamento Zara. L'unica italiana è Giuliana Benetton, 11ª con 2 miliardi di dollari. Nella top 20 anche la conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey, al 9º posto, e J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, 20ª. Ambra Notari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Google lancia una nuova iniziativa. Come un enorme blob, un po' trasformista per essere in perfetta linea con i tempi, Google si espande cercando di inglobare tutto quello che può dello scibile umano. Del resto, il nome del più diffuso motore di ricerca, che è poi il leader planetario del web, deriva da un termine matematico che indica un numero composto dalla cifra 1 e da 100 zeri. E la missione del colosso di Mountain View è infatti quella di organizzare in modo scientifico l'enorme quantità di informazioni disponibili nel mondo sul web. Ma l'universo virtuale a Google non basta più. Il gruppo americano guarda infatti oltre, pensa alle energie rinnovabili con un progetto miliardario nel settore eolico e si lancia nel campo macroeconomico, mettendo a punto niente poco di meno che un proprio indice sull'inflazione. Un indice giornaliero, il Google Price Index, calcolato in base ai dati raccolti nei vasti database di Google sugli acquisti effettuati online. Il principale vantaggio sarebbe quello di poter ottenere i dati economici in modo molto più rapido utilizzando le risorse del web. Come se non bastasse, il gruppo americano ha messo a punto la self-driving car, l'auto che si guida da sola. Da colosso di internet, insomma, Google diventa colosso poliforme, capace di uscire dai confini dell'online per approdare a settori come energia, telefonia e auto, con ripercussioni tutte da scoprire. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo già parlato nella prima parte di GR 24 dei disordini di Genova, degli arresti e anche delle scuse arrivate all'Italia da parte del governo serbo per quanto accaduto appunto nelle ultime ore a Genova. Ebbene, poco fa il nostro Dario Ricci ha raggiunto al telefono l'ambasciatrice serba in Italia, Sandra Raskovic Ivic. Sentiamola. Ma io devo dire che non si tratta solo delle scuse ufficiali né mie né del governo serbo, ma anche le scuse di tutto il popolo serbo. Io non vorrei che l'Italia si forma un'immagine di Serbia e di popolo serbo sotto il modello, sotto l'ottica di questa decina, un centinaio di questi teppisti e squadristi che hanno fatto un incubo ieri sera sul stadio. Sentiremo ancora le parole dell'ambasciatrice serba in Italia nel GR24 delle 14. Un saluto da Maria Pira Ceci. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.